Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di un tema che tocca da vicino ai consumatori. Si può bere bene con 10 euro? Questo è un interrogativo, ovviamente parliamo di vino. E devo dire che già sul sito Gastronauta ho ricevuto 4-5 precisazioni, cioè mi chiedono: ma 10 euro in che senso? 10 euro in cantina o 10 euro sullo scaffale? Ebbene no, parliamo di 10 euro sullo scaffale, anche se ci rendiamo conto che c'è un 15% degli agenti, un 30-35% dei grossisti che va a incidere. Poi alla fine noi parliamo di 10 euro finali, ovviamente 10,50 fino ad 11. E vogliamo sapere se anche i nostri radioascoltatori cosa ne pensano soprattutto. E allora numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. In attesa che qualcuno dica che si può bere o non si può bere, perché come dico i pareri sono già diversissimi, ne sono già arrivati tanti, chi dice che è possibile, chi dice che ormai è impossibile. E allora noi cominciamo da un professore, dal professor Leonardo Valenti, enologo e docente all'Università di Milano. Buongiorno Valenti. Ciao, buongiorno Davide e un buongiorno anche ai tuoi radioascoltatori. Io voglio chiederti, ma dal punto di vista appunto tecnico, quanto può costare un 0720 di vino senza considerare la bottiglia, il tappo d'altro? Insomma, c'è un costo, perché io credo che in qualsiasi parte d'Italia, al di là degli ammortamenti dei terreni, tutta una serie di considerazioni patrimoniali, cioè un litro di vino costa uguale, perché l'uva costa, cioè che per ottenere un 0720 di vino quanta uva ci vuole? Parliamo di 0,750 e non di 720, sì, certo. Facciamo certo confusione. Comunque, il concetto è abbastanza giusto. Diciamo che con un chilo d'uva si può ottenere una bottiglia, più o meno il concetto è questo. Poco più, poco meno, poi bisogna fare delle distinzioni. Non è vero che però le uve costino tutte alla stessa maniera, perché è il livello di attenzione che si ha, il livello di produttività per ettaro, i costi legati alla gestione annuale sono differenziati in funzione a che tipo di prodotto si vuole andare a fare, per cui c'è molte attenzioni in cui si può raddoppiare, triplicare, quadruplicare le ore per ettaro in una situazione di grande qualità di prodotto e di rispetto di una tipologia di prodotto. È vero che secondo me comunque la domanda tua è lecita e secondo me non è che tutti poi dopo logicamente bevono tutti i giorni vini che hanno una impronta, una situazione legata a un investimento elevato. Si può tranquillamente bere bene a 10 euro sullo scaffale, 10-11 euro. Il mio ragionamento era questo: è come nella moda, che un metro di stoffa alla partenza costa uguale, poi è evidente che c'è la griff che incide giustamente, c'è la notorietà di marca, c'è la storia, la tradizione, c'è anche il territorio che incide pesantemente. È evidente che non si può mettere sullo stesso livello un Barolo, un Brunello con un vino non conosciuto, immerso negli ultimi anni e prodotto in territori che fino a qualche anno fa non erano considerati vinicoli. Questo è evidente, però il mio ragionamento era questo: è evidente che poi sul vino non è tanto il costo iniziale che incide, ma è poi tutto quello che c'è per strada, perché come dicevo mi risulta che ci sia un costo di agenti del 15% e di grossisti intorno al 35-40%, più di tutto il resto. Quindi tu dici che con 10 euro si può bere un signor vino? Sì, secondo me è corretto, e quello che stavi dicendo tu secondo me è il punto focale. Ovvero sì, abbiamo in Italia tanti territori, i territori sono la forza di questa nazione viticola, per cui il discorso relativo alle zone come può essere una Langa, come può essere una zona di collina italiana è più difficile da lavorare di una grande pianura come può essere la pianura emiliano-romagnola o la pianura veneta, per cui naturalmente cambiano i costi, cambiano le situazioni. Questo è fuori discussione, però io penso che è vero, non ci sono delle differenze sostanziali da una bottiglia che costa 10 euro, una bottiglia che c'è 40 euro, non ci sono delle differenze, ci sono differenze di 4 volte del costo dell'uva, ma il costo dell'uva molte volte è quello che è diciamo, il meno incidente sul prodotto finale. Bene, devo dire che ricevo già molte sms che mi dicono che sì, si può bere bene, ma non certo al ristorante. Sicuramente anche questo è anche vero. Ma io prego qualche ristoratore di intervenire e di dirci la propria, diciamo, la propria idea su questo. Intanto, grazie a Leonardo. Sentiamo Gianni dalla provincia di Monza Brianza. Sì, buongiorno, ho 59 anni, sono un neobevitore, cioè bevo da poco tempo. Compro vino nei grossi supermercati della mia zona. La domanda che ho è: ma si può bere bene anche a 5, 6, 7 euro? Cioè, nei supermercati, dico anche i nomi, dai, come Esselunga o Shan della zona di Monza, ci sono dei punti vendita di vino molto ben riforniti. E nella fascia, appunto, direi, io non guardo neanche i vini che costano 2 o 3 euro, lasciamo stare, non ne parlo. Voglio invece riferirmi ai vini che costano, ripeto, dai 4 agli 8 euro, che molto spesso i supermercati poi scontano e vendono scontati tutte le settimane dal 30 al 50%. Sono anche questi vini, diciamo, dignitosi. Bene. Sono prodotti anche da grandi aziende, anche qui faccio pubblicità, dai Selle Mosca, Mezza Corona, Cavit, cioè Bene. Aziende famose, vini trentini, vini siciliani. Grazie Gianni. Okay. Ora questa di 5-6 euro la riproporremo. Sentiamo Alessandro da Roma. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Io parlo da consumatore, non sono un eccesso conoscitore di vini, però insomma, devo dire che per lavoro ho la fortuna di girare un po' l'area del centro-sud, per intenderci, e ho la grossa fortuna di lavorare anche nell'Umbria. Io devo dire che spesso mi rifornisco di buoni vini che pago anche 5-6 euro, come dice il signore. Fare un esempio, l'Ipercop di Perugia ha una cantina che è eccezionale a livello di vini. Anche qui nel Lazio io riesco a bere degli ottimi Merlot, senza fare il nome delle cantine, poi se si può lo dico anche, però sa, devo dire che si rientra in questa fascia bevendo anche un buon vino, sia in bottiglia e onestamente anche in mescita. Io riesco a bere un Sagrantino che compro in Umbria, che è eccezionale come vino sfuso. È chiaro che secondo me... Ora non andiamo sul vino sfuso, stiamo parlando di vino in bottiglia. No, parliamo del vino scaffale, diciamo, a bere. Bene. Il problema è che non si può bere tutti i giorni una bottiglia di euro a casa come il vino da tavola. Eccoci di nuovo a parlare di vino, si può bere bene con 10 euro, ma vedo che mi fanno scendere, io non vorrei scendere troppo però sotto i 10 euro, perché sotto i 10 euro qualcuno mi dice addirittura un bianco di Custoza da 2,50 euro al supermercato, un altro mi dicono poche lire, un altro ancora 3,80 euro. E insomma, diciamo che sono scatenati i radioascoltatori nel mandarmi i loro acquisti. Però io voglio chiedere Andrea Gori, che è sommelier e patron di Da Burde, nonché ambasciatore dello champagne, fresco ambasciatore dello champagne per l'Italia. Complimenti, Andrea. Grazie Davide. A proposito di vino, costa, no? Mi sembra lo champagne sia adatto. Sì, certo, ma anche il Barolo, anche il Barbaresco, anche questi, diciamo, li abbiamo tolti subito dalla mista. Il mio discorso iniziale era molto provocatorio, non riguardava tanto il Barolo d'Alto, riguardava certe griffe che in territori non sicuramente molto vocati giocano molto sul loro nome, sulla loro potenzialità anche di entrare nel mercato con dei prezzi veramente assurdi. Ma io voglio chiederti a te, Andrea, vedo questi prezzi 2,50, 3,80, ecco, io mi chiedo, si può bere bene secondo te? Beh, diciamo, si può bere bene. Ora, questi sicuramente, se parliamo di queste cifre, se sono franco cantina, probabilmente sì, ma diciamo che secondo me sono prezzi da discount, considerando che insomma tra bottiglia, tappo eccetera, un euro e mezzo, due euro, ecco, si arriva abbastanza velocemente. Sì, mi parlano di supermercato, questo bianco di Custoza da 2,50 euro al supermercato è genuino e si beve volentieri, mi dice un certo Simone. Quindi un altro che mi dice Nero d'Avola Arcadia, premiato da Altro Consumo nel 2010-2011 per la qualità, 3,80 euro al supermercato. Beh, ovviamente diciamo è possibile, perché in una società industriale con vini diciamo industriali anche un margine di 20 centesimi su una bottiglia su un milione di bottiglie o anche 500.000 cominciano a essere dei soldi, e senza contare l'economia di scala a fine anno, accordi con le grandi distribuzioni, però diciamo sicuramente non parliamo di vino, cioè le persone che comprano questi vini dicono: vedi, questo sì che è un vino genuino del contadino, mica quello lì caro che c'è una sega. Siamo arrivati a queste assurdità. Ecco, un vino che esce a quelle cifre sicuramente è un prodotto industriale, è impossibile che sia un prodotto diciamo della terra, come lo intendiamo in maniera tradizionale. Ecco, sentiamo Gianni da Verona. Buongiorno Gianni. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Gianni, ho 50 anni, ho fatto i tre corsi ICE, quindi un po' di vino, poi venendo da Verona ne capisco. Da noi si compra il Campofiorin di Masi a 8 euro allo scappale. Quello che le chiedevo da lei o dai suoi esperti, ed è una discussione che ho avuto anche ieri sera con gli amici, ma realmente la stessa bottiglia che io compro al supermercato è lo stesso vino che poi bevo alla ristorazione? Ho spesso due linee diverse. Realmente è lo stesso vino? Beh, io credo che non si faccia il gioco delle tre carte. Sicuramente il vino è lo stesso. Ovviamente c'è il ricarico della ristorazione, c'è il ricarico anche dei passaggi. Quindi sicuramente se poi sono più o meno esosi, questo è un altro tipo di discorso. Ma in realtà bisogna calcolare anche questi. Quindi grazie Gianni da Verona per aver portato questo argomento, che poi è anche di molti radioascoltatori. Bene, io do un buongiorno a Fabio Giavedoni, che è responsabile della guida Slow Wine di Slow Food, che è uscita l'anno scorso per la prima volta e ora è il secondo anno. Buongiorno Fabio. Buongiorno, ciao. Fabio, io volevo chiederti, secondo te si può bere bene con 10 euro? Che voi, tu hai finito sicuramente di la tua guida, quindi avrai fatto tantissimi assaggi. E cosa ne pensi? Si può bere veramente bene con questa cifra? Sì, si può bere bene, e si può bere anche in maniera intelligente, non solo bene. Nel senso che ti puoi togliere degli sfizi molto curiosi e interessanti. Noi su questo fatto del vino quotidiano, così l'abbiamo chiamato, cioè del vino che puoi trovare in enoteca sotto i 10 euro, avevamo fatto appunto in passato già una pubblicazione totalmente dedicata a questo. Adesso li abbiamo segnalati all'interno di Slow Wine. Ti dico, ne facciamo un evento in particolare dedicato totalmente a questi vini quotidiani lunedì 24 ottobre alla fiera di Milano. Bisogna fare un bel lavoro di ricerca, soprattutto nelle denominazioni più importanti, ma che se fatto bene ti porta a trovare anche molti Chianti, molti rossi di Montalcino, decisamente buoni in quella fascia di prezzo. Fascia di prezzo dove però, come ti dicevo, si può bere in maniera intelligente, nel senso che è molto più facile trovare molti prodotti del territorio, molti vini di denominazioni sconosciute che però segnano fortemente l'identità, la tradizione di un territorio, e che possono essere molto interessanti da scoprire quando si va in giro e si mangia per osterie e ristoranti delle varie parti d'Italia. Sempre che queste osterie e questi ristoranti facciano questo lavoro di ricerca e promuovano i vini del territorio, cosa che purtroppo non sempre funziona. Senti, visto che voi avete scelto come Slow Wine di non dare votazioni ai vini, ma diciamo altre considerazioni, ti voglio chiedere questo: ma in passato forse molte guide che hanno così premiato vini appena usciti sul mercato e che questi vini poi hanno triplicato il prezzo l'anno dopo, non sono un po' responsabili dal punto di vista dell'aumento dei costi? Sì, temo che fossero però, cioè ne ho avuto varie riprove, delle operazioni molto miopi, no? Nel senso che immediatamente i prezzi triplicavano. Però il consumatore, che non è scemo in passato e tantomeno adesso, come dire, si lasciava infinocchiare una volta e poi dopo capiva che sotto c'era questo inghippo e lasciava stare, no? Ora, dal momento che un produttore fa vino tutto l'anno, come dire, tentare il colpaccio della vendita a prezzo triplicato a seguito di un premio di un punteggio alto di una guida o di un giornalista, funziona in quel momento lì. L'anno dopo che non hai ricevuto un punteggio così alto o il premio e ti trovi con quel prezzo, non vendi più una bottiglia. Quindi non so se è stata una grande mossa commerciale. Oltretutto, al di là della mossa commerciale, quantomeno da noi di Slow Food vista piuttosto male. Bene, sentiamo Leone da Bergamo, radioascoltatore. Buongiorno Leone. Sì, buongiorno, salve. E volevo dire che il costo, la differenza tra un tipo di vite, di vino e un'altra è per esempio dalla potatura meccanizzata alla potatura manuale, il tipo di tralcio, le gemme che si lasciano su ogni tralcio, per esempio certe aziende lasciano soltanto 3 gemme, altre ne lasciano 8. E quindi lo sviluppo anche delle viti, certo, per ettaro. Sì, sicuramente la resa per ettaro, se c'è una resa di 300 contro 20 o 25 o 30, sicuramente ha la sua incidenza. Il rapporto da 1 a 10, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi su questo. Inoltre certi vini vengono venduti 3-4 anni prima, sono delle specie di azioni che poi passando di mano in mano vengono vendute, ma ci si avvicina al tempo della... Grazie Leone da Bergamo. Voglio chiedere a Andrea Gori, al toscano Andrea Dori, questo. Ma una bottiglia di Chianti a 5 euro, un Morellino a 4, venduto nella grande distribuzione, sono così scadenti. Cosa ne pensi, Andrea? Beh, io, ecco, a quelle cifre lì sicuramente un paio di anni in più ci vogliono. Forse il Morellino fra i 5 e 6 euro in grande distribuzione ci sono cose anche buone. Chianti, non Chianti classico, diciamo 6-7 euro si può trovare qualcosa. 4-5 diciamo rientrano, può darsi anche siano buone, perché tu sai, quando uno fa un accordo con la grande distribuzione, certo, anche un'azienda grande deve sottostare a delle vendite, diciamo praticamente a prezzo di costo. Quindi secondo me 5-6 euro anche qualche volta, se l'azienda è conosciuta, si può bere bene in grande distribuzione. Però ricordiamoci che sono fasi transitorie, sono ultra sconti, non è il prezzo vero, diciamo. Ti faccio una domanda veramente traditrice, ma a 10 euro, 11 euro si può trovare un buon champagne? Beh, in Champagne sì, cioè laggiù dove bevono ogni anno quasi 180 milioni di bottiglie sì, qui in Italia no, sostanzialmente è impossibile, diciamo 10 euro è quasi il prezzo perlomeno di mercato delle uve, quindi 10 euro, diciamo che prezzo Franco Cantina dai 15 euro si beve veramente bene, quindi poi diciamo i ricarichi possono andare fra i 20 e i 25 euro in enoteca, ma secondo me in grande distribuzione ci sono un paio di grandi maison che tutti conoscono, che fanno dei vini eccezionali, e per 24 euro sullo scaffale lo champagne famoso di Scarlett Johansson, per esempio, è secondo me un rapporto di prezzo quasi imbattibile. Grazie Andrea Gori. Fabio Giovedoni, volevo chiederti questo, cosa ne pensi dei prezzi dei vini nei ristoranti? Ah, questo è una domanda traditrice, nel senso che è molto complicata. Se posso, ti rispondo in questo modo, prendendo da una risposta che ha dato un nostro collaboratore, che è anche ristoratore, un collaboratore della nostra guida, che è anche ristoratore, proprio sul tema dei vini quotidiani, in cui lui poneva un problema che è un po' assurdo, però che è questo. Dice, se io nella mia carta dei vini del mio territorio o anche di altre zone, ma soprattutto del suo territorio, ha dei prezzi troppo bassi, no? Cioè intorno ai 10 euro in carta al ristorante o anche meno, il cliente non me li compra. Li devo mettere a 12-14 euro per dare l'idea che siano dei vini importanti, allora li prendono, perché c'è un po' il caso che 10 euro sarà sicuramente una cosa cattiva, no? Invece io insisto per farglieli provare e poi dopo si ricredono, no? Allora, questo è un po' un paradosso del prezzo. Concordo con quello che diceva Gori prima, che anche al supermercato a 6 euro una bella bottiglia di Chianti te la puoi, se è stata selezionata bene, la puoi trovare, quindi non dobbiamo aver paura del prezzo troppo basso dentro un determinato range. Quando scendiamo agli 1-2-3 euro, no, bene, è meglio lasciare stare. E dopodiché le dinamiche del ricarico nei ristoranti sono variabili, perché sono micidiali, perché invece spesso si tenta di ricaricare molto il vino poco costoso per portarlo a una soglia che si identifica possibile per tutti, magari di 20 euro così, quando realmente il produttore ha dato un valore al suo vino decisamente più basso. Abbiamo sentito, visto che su Facebook Gastronauta addirittura mi mandano elenchi di 10 produttori con tanto di prezzo in enoteca, e poi però voglio leggere un SMS che mi sembra abbastanza importante. Sono Mare, vi scrivo da Novara, vorrei segnalare che 10 euro è il prezzo di una bottiglia di Controguerra DOC, Colline Termane, Progetto Bella Vita, sostegno dei malati di cancro dell'Aquila. 18 giovani artisti hanno creato altrettanto etichette per le bottiglie di Bella Vita. 10 euro che ripartiscono tra solidarietà, sostegno all'arte e valorizzazione del territorio. Credo che sia un SMS importante. Bene, continuiamo. Chiamiamo il nostro Normanno da Teramo, un radioascoltatore da tempi in linea. Buongiorno Normanno. Buongiorno. Mi dica. Dunque, io volevo dire, sono molto d'accordo con l'ultimo intervento che c'è stato, cioè che si può bere benissimo con 10 euro, anche di meno. Non sono d'accordo con l'intervento precedente che diceva che una bottiglia con il tappo che costa un euro e qualcosa, non è assolutamente vero, una bottiglia da vino con il tappo costa, parliamo di poche decine di centesimi, 30-40 centesimi come costo di produzione. Beh, io credo che se non c'è un tappo Corona, un tappo di sughero, insomma, cresciamo un pochino. Sì, ma non parliamo di quei prezzi lì. Comunque volevo portare la mia esperienza. No. Io acquisto vino da una all'ingrosso, diciamo, compro dei vini anche abbastanza tipo Barolo invecchiato. Sì, non mi dica che sono sotto i 10 euro. Compro degli ottimi vini da una cantina che viene premiata annualmente, non voglio fare pubblicità, quindi non voglio fare nomi, niente, e compro questi vini con imposti sotto i 10 euro. Poi io ritrovo questi vini, gli stessi vini in vendita nei bar o nei locali, a 15-20 euro. Quindi, beato lei che compra questi Baroli premiati a 10 euro. Grazie Normanno da Teramo. Andiamo da Dennis dalla provincia di Mantova, un altro radioascoltatore. Buongiorno signor Davide. Prego, mi dica. Io la chiamo, sono un piccolo ristoratore e volevo confermare che anche alle nostre tavole con 10, massimo 12 euro oramai si bevono vini meravigliosi, prodotti da quasi tutte le più importanti cantine d'Italia, utilizzando i loro vigneti nuovi, magari con cose non importantissime ma dignitosissime, e soprattutto meravigliose anche nei confronti di tanti vini che vengono dall'estero a poco prezzo. I nostri sono sempre più buoni. Bene, grazie Dennis dalla provincia di Mantova. Andiamo in una famosa enoteca a Roma, andiamo dal patron Paolo Trimani. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide e a tutti gli ascoltatori. Tu hai mai trovato un Barolo sotto i 10 euro? Diciamo che sulle grandi denominazioni i prezzi molto bassi mi fanno venire qualche dubbio, se non qualche sospetto. E relativamente agli ultimi due interventi, appunto, dico, trovare vini tra i 5 e i 10 euro, anche in enoteca, che siano di buona fattura e anche ottima qualche volta, è senz'altro possibile. Bisogna selezionare con estrema cura, puntando su zone e su vitigni che siano più generosi. Penso al Montepulciano d'Abruzzo come grande esempio di versatilità e che di valorizzazione di un vitigno che può dare un valore elevato anche a prezzi contenuti. E per quanto riguarda la ristorazione, ti annuncio che nel nostro wine bar, nella nuova carta dei vini, avrà gli stessi prezzi dello scaffale di negozio. Quindi non ci sarà una differenza tra il prodotto servito al tavolo e bene, quello che butta in scaffale. Quindi è un'operazione di normalizzazione dei prezzi. Rimani con noi Paolo. Ora sentiamo Giuseppe da Napoli. Buongiorno Giuseppe. Giuseppe da Napoli tace. E allora continuiamo, andiamo da un giornalista. Andiamo da Andrea Grignaffini, direttore creativo di Spirito Divino. Buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Tu riesci a bere bene sotto 10 euro in enoteca o al supermercato? Ma guardi, innanzitutto fai bene a specificare enoteca o supermercato, perché al ristorante onestamente è una via assolutamente impercorribile, se non togliamo forse qualche lambrusco, parlo anche da emiliano. In enoteca onestamente ormai qualcosa si trova, anche perché secondo me bisogna fare un po' di necessità virtù, il periodo è questo. Non è facile, bisogna essere secondo me molto curiosi e cercare di muoversi in quelle denominazioni che sono sempre state meno note e che secondo me qualcosa ci possono regalare. Io penso, non so, ai nebbioli, magari non certi baroli, come diceva il signore precedente, che a sotto 10 euro la vedo piuttosto difficile, ma penso, non so, ai baroli del Piemonte, ai nebbioli del Piemonte del Nord, ai nebbioli valtellinesi, qualcosa si riesce a trovare. Ma io credo che sia anche una questione, cioè, di mettersi tranquillamente a ricercare appunto tra gli scaffali. A me è capitato, lunedì uscirà sul Sole 24 Ore, usciranno due pagine sul numero del lunedì su i vini low cost, e di andare in un supermercato a controllare i prezzi. Ho visto un bianco friulano interessante, era a 10 euro e ho chiamato il produttore, mi ha detto che parte dall'azienda a 13,50, quindi ci sono anche, diciamo, questi discorsi, questi prodotti civetta ovviamente che servono alla grande distribuzione. Essere fortunati, andarli a scoprire forse porta anche a risparmiare dei vini. Ma devo dire che vedo un sms che mi è abbastanza interessante, dice: al super la stragrande maggioranza non spende più di 3,50, le offerte 2 euro vanno a ruba, è la realtà odierna. Paolo, ma è veramente la realtà odierna questa? Dal mio punto di vista no, però la grande distribuzione è molto più grande e articolata. Direi che in quel caso si possono trovare prodotti in super offerta a 2 euro che magari costano, il prezzo regolare sarebbe più alto, possono essere ben fatti, però insomma raramente interessanti, se parliamo dell'aspetto anche del piacere di bere. Partendo dai 6, arrivando intorno ai 10 si possono scoprire grandi cose. Sorbara è una terra che sta in questo momento dando grandi prove, ma qualche cosa anche nel Lazio, nei tanto vituperati castelli romani, o piuttosto Soave e parte del Trentino, sicuramente possono offrire valori interessanti. Verdicchio o il Salento sono anche altre zone dove si possono trovare cose buone con un prezzo molto ragionevole. Bene, Gino della provincia di Milano, radioascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma niente, io intervenivo perché ricordo che già una decina di anni fa vi erano esperti enologi che ogni tanto parlavano alla radio, non ricordo più se alla sua trasmissione o ad altre, che dicevano: sì, già con 10 euro si riesce a bere un vino discreto. Ecco, a me sembra che tutte queste questioni siano un pochettino, fanno parte di quel volume, di quel montare, eccetera, che tende semplicemente a far lievitare i prezzi. I prezzi, non i costi, perché i costi sono quelli. Cioè, si parlava di vino sfuso, qui non si parla di vino sfuso, però il vino sfuso si trova benissimo a 1,50-2 euro al litro. Ottimo vino, non sarà il vino della zona particolare del Barolo, della zona più centrale del Chianti o di qualcosa del genere. Guardi, quindi, che pochi mesi fa, io ho fatto una trasmissione sul vino sfuso, quindi ne abbiamo discusso ampiamente e, diciamo, sono emerse moltissime cose, moltissime considerazioni di molti produttori, tra l'altro, che non riuscivano a vendere altrimenti per la distribuzione, che ovviamente sono anche costretti a vendere vino sfuso, e ci sono dei vini sfusi di ottima qualità. Questo è indubbio e nessuno lo mette in discussione. Non tutti però diciamo mettono sul mercato del vino sfuso. Grazie. Io vorrei tornare a Andrea Grignafini per chiedergli: ma secondo te il ricarico sui ristoranti in Italia è molto esoso rispetto al resto del mondo? Ma guarda, forse molto esoso no, rispetto per esempio alla Francia, rispetto all'Inghilterra, dove molte volte i prezzi sono veramente astronomici. Io penso però che al di là, insomma, di questa panoramica europea, in tutti i modi è un po' esoso, e penso che sia molte volte ingiustificato anche per la ristorazione stessa. Cioè, tenere abbassati i prezzi del cibo, che è la vera fatica del ristoratore, dello chef, per poi alzare quello dei vini, che è un aspetto, diciamo così, a côté del mondo, diciamo, gastronomico in stretto senso, penso che sia una cosa non corretta anche rispetto alla professione stessa del ristorante. A volte si trovano, soprattutto nei grandi ristoranti, magari ottima convenienza in vini costosissimi, che magari hanno un rincarico minimo, e magari nei vini a 5 euro si rincarano, e non è una provocazione, a volte del 1000%. Bene, grazie a Grignafine, grazie a Trimani. Sentiamo Vito, no, sentiamo Vito da Trieste. Buongiorno Vito. Ah, buongiorno signor Davide. Io sono un grande fan di lei e lei è molto brava, una persona. Bene, bene, andiamo al dunque, andiamo al dunque. Allora, guardi, io prendo dei buon vini, degli ottimi vini in provincia, in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Gorizia, a Prepotto, un'azienda che si chiama Colli Poiani, hanno dei rossi di altissima qualità a prezzi di 10 euro la bottiglia. Bene. Poi acquisto anche dei vini bianchi a San Floriano, che secondo me sono a livello mondiale, all'azienda Draga, sono dei bianchi favolosi, Chardonnay, Pinot, Sauvignon, altissimi vini a prezzi intorno ai 10 euro. Io premetto che vado sempre, io ho imparato tanto da lei, io vado sempre nelle aziende medio-piccole dove producono dalle 40.000 alle 100.000 bottiglie. Bene, e bene. Io guardo l'azienda dove è situata, se è situata alla zona ovest, est, se in collina. Per me la qualità dei vini, secondo me, è l'azienda dove è situata. Non è che si prende un vino di 3 euro, vale 3 euro. Se lei va in un'azienda che è messa in collina, esposta a sud-est, ha un'altra qualità. Poi dipende dai grappoli dell'uva, perché ci sono vigneti che producono tante uve e vigneti che ne producono di meno. Secondo me un vino di 3 euro non fa la qualità di quello di 10. Bene Vito, lei devo imparare io da lei, non lei da me, visto cosa, diciamo, la specificazione che ci ha dato delle sue ricerche. Grazie a Vito da Trieste. Bene, ho un SMS veramente interessante. Mi dice: purtroppo c'è tanta gente che è convinta di bere del Barolo mentre beve del Barbera, puntini puntini. Mi sembra che anche questa sia una considerazione da prendere con grande attenzione. Bene, abbiamo parlato tantissimo di supermercati, allora ora abbiamo con noi Sergio Soavi, responsabile nazionale prodotti tipici Coop. Buongiorno Soavi. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori e ai tuoi ospiti. Senta, c'è veramente tanta scelta per portare, diciamo, negli scaffali vini con massimo 10 euro della produzione italiana, di qualità? Ma Davide, qui il discorso è questo: noi operiamo su una fascia prezzo, su una fascia clienti che è tendente all'infinito, ma c'è un dato su tutto: la grande distribuzione negli ultimi anni è tornata ed è diventata una protagonista della vendita del vino anche in fasce che prima non le appartenevano. Parliamo di quello che tu identificavi prima, tra gli 8 euro a salire. Lo è diventata probabilmente non solo per proprio merito, ma probabilmente anche perché abbiamo parlato troppo di quanto costa un prodotto e poco di quanto vale. E quindi la reperibilità di prodotti di alto livello non è così semplice come potrebbe essere auspicabile. E quindi anche la grande distribuzione sta guadagnando consumatori che probabilmente non riescono più a frequentare, come potevano fare un tempo, i luoghi dove hanno imparato a conoscere questi prodotti. Detto questo, nella fascia invece, diciamo, inferiore, quella sotto i 5 euro lì attorno, noi abbiamo cominciato a inserire aziende con dei progetti, l'ultimo si chiama Sieme, dove abbiamo lavorato su questi vini come se fossero quello che sono, cioè il vino è un prodotto agricolo, quindi siamo partiti dall'origine del prodotto, partendo dal fatto che la grande cooperazione nella produzione del vino, dell'uva, è un fattore determinante, importante, che però probabilmente è stato negli ultimi anni un po' trascurato l'impatto e il valore che queste persone hanno nel loro salvaguardare la propria terra e il proprio lavoro. Quindi c'è un'offerta che è amplissima, c'è un consumo, vorrei ricordare a tutti, che è in calo purtroppo, e provare a proporre sulle tavole dei clienti dei vini quotidiani che possono costare attorno ai 4 euro a bottiglia è un gesto, secondo noi, di grande rispetto intanto della nostra agricoltura, ed è anche una maniera per impedire questo abbandono al classico bicchiere di vino a pasto a cui stiamo assistendo. Si arriva all'assurdo che in queste bellissime, credo, rete etichette che abbiamo fatto di questa linea, potevamo mettergli addirittura la posologia, un bicchiere al dì prima dei pasti. Perché questo sembra che sia una spirale che può far sorridere, ma insomma noi siamo ancora gente che pensa che si debba bere per ricordare, non per dimenticare. Certo, quindi, certo Soavi, ma io rigiro questa domanda a un produttore, a Francesco Zonin, gli chiedo: ma Francesco, ma mettere un vino a 4 euro sul mercato è possibile? Beh, intanto buongiorno Davide, buongiorno anche al dottor Soavi. Ti vuol dire, sono molto d'accordo con quanto detto sinora dal dottor Soavi. Si può, si entra in un campo economico che è abbastanza vasto, in cui bisogna rielaborare un sacco di dati, basta capire se l'azienda che lo produce ha tutte le attività già ammortizzate o meno. Questo è un dato di fatto, perché se un'azienda è storica, di famiglia, in cui la cantina e tutti i macchinari e soprattutto la vigna, che oggi è il grande costo d'acquisto che deve sostenere, perché parliamo di decine se non centinaia di migliaia di euro a ettaro. Poi c'è il costo di gestione, perché la vigna, a differenza di tanti altri prodotti agroalimentari, ha un costo di gestione che è enorme, è quotidiano. Per cui molto dipende dal tipo di investimento che si è fatto. Poi, se sia possibile o meno, dipende innanzitutto da quanto si vuole valorizzare l'intera filiera. Si diceva bene prima, oggi stiamo rischiando che ci sia una strozzatura a livello della produzione, e invece per mantenere margini su una serie di altri settori. Credo che il fatto che la distribuzione, ed è vero che la distribuzione moderna giocherà un ruolo sempre più forte, perché la reperibilità del prodotto, è vero, è difficile, la distribuzione oggi è difficile. Ecco, Zoni, le volevo chiedere questo, ma 4-5 euro oggi si riesce, d'accordo con la distribuzione, se il progetto è comune, e vedo anch'io che ne stanno nascendo sempre di più, credo oggi sia possibile. Anzi, io credo che l'Italia, la grandissima rivoluzione che abbia fatto in questi 20 anni, è che ha dato la possibilità a tanti consumatori di bere bene, non sopra gli 8, ma anche fra i 5 e gli 8 euro. E siamo uno dei pochi paesi che è in grado di presentare tante varietà diverse, tante qualità diverse, con un ottimo rapporto. E questo va salvaguardato. Ovvio che poi bisogna vedere di anno in anno, perché certi prezzi sono sostenibili per alcuni anni, secondo la materia prima. Quest'anno avremo l'annata più scarsa degli ultimi 20 o 30 anni, perché saremo attorno ai 40 milioni di ettolitri, e poi avremo logiche di mercato, però ecco, sicuramente sotto certi prezzi non è sostenibile la filiera. Bene. In nessuna parte del mondo. Infatti vediamo che stiamo spiantando, quest'anno la Sicilia ha spiantato 2000 ettari, l'Italia continua a spiantare, il Cile spianta, gli Stati Uniti spiantano, l'Australia spianta, perché bisogna stare attenti alle solite logiche di mercato e l'incrocio fra la domanda e l'offerta. Grazie, sentiamo Andrea da Torino, radioascoltatore, buongiorno Andrea. Buongiorno a lei, Davide. Allora, volevo solo rispondere a una telefonata di tre quarti d'ora fa. C'era un ragazzo che parlava se si poteva bere nella grande distribuzione bene, a tra i 4 e i 6 euro. Sì. Io credo proprio di sì, in quanto a Torino abbiamo un sacco di supermercati che fanno degli extra sconti, però è importante leggere la carta d'identità del vino. Ad esempio c'era in offerta, mi sente? Sì, prego, okay. Veloce, perché devo chiudere. Sì, 55, sì. Veloce. Lo faccio velocissimo. C'era un buonissimo vino della cantina Clavesana a 1,89 euro la bottiglia, era un dolcetto. Chi conosce la cantina Clavesana sa che lavorano bene, i soci vengono controllati, e quindi, per dire, adesso questo è un... ha fatto estremo, penso che anche con 2 euro che dire, ci sono questi fatti estremi. Soavi, 30 secondi, ci sono dei fatti estremi, ovviamente ci sono dei fatti estremi, ci sono anche degli errori estremi, quindi io credo che spostare troppo l'attenzione sul prezzo di una cosa allontana il cliente e le persone a percepirne il valore. Il valore è la somma di tante cose ed è parte dall'origine delle cose. La carta d'identità, come diceva la persona precedente, è fondamentale. I documenti non vanno comunque mai falsificati, questo è da ricordarselo. Bene, è la cosa più importante. Una cosa velocissima, Zoni, in 30 secondi, quanto incide il costo di distribuzione su un vino? Ma guardi, sono dati di mercato, vale intorno ai... dipende se è in promozione o meno, vale dai 10 ai 30-35 punti, ed è sicuro che è una media europea, perché non abbiamo niente da invidiare ad altri paesi. Bene, grazie. Sentiamo Giuseppe da Napoli, un radioascoltatore, 30 secondi. Buongiorno, io volevo parlare, io ho trovato ad esempio al supermercato un Falerno del Massimico, che è uno dei vini più antichi del mondo, sì. Si può dire, che bevevano i romani, a 6,70 euro di Villa Matilde, e poi diciamo un altro vino, un Palagrello Nero, che è uno dei vini che fanno parte del diciamo del ventaglio borbonico di San Leucio, che è un bel vino che si trova pure a 9 euro, 10 euro, poi a seconda anche della cantina. Condivido con lei, Giuseppe da Napoli, devo chiudere, ma lei ha nominato due grandi vini campani e a questi prezzi è giusto anche acquistarli. Grazie a Giuseppe da Napoli, grazie a tutti i radioascoltatori, grazie agli intervenuti. Io vi do appuntamento ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Un caro saluto da Davide Paolini.